storia di ogni pace, di mille eroi, tra Coca-Cola e sogni, tagliano il gel, tra stelle e strisce il tempo, le praterie ed i falò, i cercatori d'oro. Cielo che in te confondi le stagioni del vecchio West, scenario mille film, quante canzoni negli occhi dei ragazzi, il contatto. Concerto country, amico, sogno americano, dolce California, nella tua musica mi perdo e mi ritrovo sempre. California, e quanti amici sui miei jeans, hanno lasciato un nome e un segno, non ti conosco ma ti sento. Conosco ma ti sento amica.